Lettera 8. Mrs. Vernon a Lady De Courcy, Churchill. Mia cara madre, per qualche tempo non dovete aspettarvi che Reginald torni a casa. Mi chiede di dirvi che l'attuale tempo favorevole lo induce ad accettare l'invito di Mr. Vernon a prolungare il suo soggiorno nel Sussex affinché possano andare un po' a caccia insieme. Ha intenzione di mandare immediatamente a prendere i suoi cavalli ed è impossibile dire quando lo rivedrete nel Kent. Non vi nasconderò, cara signora, i miei sentimenti su questo cambio di programma, anche se credo sia meglio non informarne il babbo, la cui eccessiva preoccupazione per Reginald lo renderebbe soggetto a un'ansia che potrebbe seriamente compromettere la sua salute e il suo umore. Lady Susan ha certamente trovato, nello spazio di 15 giorni, il modo di rendersi simpatica a mio fratello. In breve, sono convinta che il prolungamento del suo soggiorno qui, oltre il tempo originariamente stabilito per il suo ritorno, sia provocato tanto da un certo grado di attrazione verso di lei, quanto, sì, dal desiderio di andare a caccia con Mr. Vernon e, naturalmente, la lunghezza della sua visita non può arrecarmi quel piacere che altrimenti mi darebbe la compagnia di mio fratello. Sono davvero esasperata dagli artifici di questa donna senza scrupoli. Quale prova maggiore può esserci delle sue pericolose capacità di questo capovolgimento del giudizio di Reginald, che quando è arrivato in questa casa era così nettamente contro di lei? Nella sua ultima lettera mi aveva infatti fornito alcuni particolari sul suo comportamento a Langford, così come li aveva saputi da un gentiluomo che la conosceva perfettamente, che se veri non possono che suscitare ripugnanza verso di lei, e ai quali lo stesso Reginald era completamente disposto a prestar fede. La sua opinione su di lei sono certa che fosse bassa come per nessun'altra donna in Inghilterra, e quando è arrivato era evidente che non la considerasse degna né di delicatezza né di rispetto, e che si rendeva conto di come le piacesse attirare l'attenzione di qualsiasi uomo disposto ad amoreggiare con lei. Ammetto che il comportamento di lei è stato perfetto per fugare un'idea del genere. Non ho rilevato la minima sconvenienza in esso, nessuna vanità, immodestia o frivolezza, e nel complesso è così affascinante che non mi sarei meravigliata della sua attrazione per lei se non avesse saputo nulla di lei prima di conoscerla personalmente, ma che contro ogni ragionamento, contro ogni sua convinzione, se ne stia così tanto infatuato, e di questo ne sono certa, mi lascia davvero stupefatta. La sua ammirazione è stata dapprima molto accentuata, ma non più di quanto fosse naturale, e non mi sono meravigliata dal fatto che fosse rimasto colpito dalla gentilezza e dalla delicatezza delle sue maniere. Ma le ultime volte che ne ha parlato è stato tutto un profondersi in lodi, e ieri ha addirittura detto che nessuno degli effetti prodotti sul cuore di un uomo da una tale grazia e da tali qualità avrebbero potuto stupirlo. E quando gli ho risposto, lamentando la malvagità della sua indole, ha osservato che, quali che possano essere stati i suoi errori, erano da imputare alla trascuratezza della sua educazione e al matrimonio prematuro, e che era malgrado tutto una donna meravigliosa. Questa tendenza a scusare la sua condotta o a dimenticarla nell'ardore dell'ammirazione mi preoccupa, e se non sapessi che Reginald è troppo di casa a Churchill per aver bisogno di un invito a prolungare la sua visita, rimpiangerei il fatto che Mr. Vernon gliel'abbia chiesto. Le intenzioni di Lady Susan sono naturalmente quelle dovute alla sua inguaribile civetteria o a un desiderio di universale ammirazione. Nemmeno per un momento riesco a immaginare che possa esserci in vista qualcosa di più serio, ma sono mortificata nel vedere un giovanotto con il buon senso di Reginald completamente abbindolato. Sono la tua sempre cara Catherine Vernon. Lettera 9. Mrs. Johnson a Lady Susan, Edward Street. Mia carissima amica, mi congratulo con te per l'arrivo di Mr. De Courcy e ti consiglio senz'altro di sposarlo. Si sa che le proprietà del padre sono considerevoli e credo certamente vincolate al primogenito. Sir Reginald è molto infermo ed è improbabile che possa intralciarti a lungo. Ho sentito parlare bene del giovanotto, e benché nessuno possa veramente meritarti, mia carissima Susan, Mr. De Courcy potrebbe valere la pena. Manwaring naturalmente si infurierà, ma potrai facilmente placarlo. Inoltre, Neanche per il più scrupoloso punto d'onore si potrebbe pretendere che tu aspetti fino a quando sarà libero. Ho visto Sir James. È venuto a Londra per qualche giorno, la settimana scorsa, e ha fatto visita diverse volte a Edward Street. Gli ho parlato di te, di tua figlia, ed è così lontano dall'avervi dimenticate che, ne sono certa, sposerebbe con piacere sia l'una che l'altra. Gli ho dato speranze sull'addolcirsi di Frederica e gli ho parlato un bel po' dei suoi progressi. L'ho sgridato per aver amoreggiato con Maria Mainwaring. Ha affermato che era stato solo un gioco. Abbiamo entrambi riso di cuore della delusione della ragazza e in breve siamo andati molto d'accordo. È sciocco, come sempre. La tua devota, Alicia. Lettera 10. Lady Susan a Mrs. Johnson, Churchill. Ti sono molto obbligata, mia cara amica, per il tuo consiglio riguardante Mr. De Courcy, che so hai dato con la massima convinzione circa la sua opportunità, benché io non sia del tutto decisa a seguirlo. Non posso facilmente impegnarmi in nulla di così serio come il matrimonio, specialmente perché al momento non sono a corto di denaro e fino alla morte del vecchio gentiluomo potrei forse avere scarsi benefici da questa unione. È vero che ho abbastanza vanità per crederlo alla mia portata, l'ho reso sensibile al mio potere e ora posso gioire del piacere del trionfo su un animo predisposto a essermi avverso e prevenuto verso tutte le mie azioni passate. Anche la sorella, spero, si sia convinta di quanto sia poco produttivo descrivere ingenerosamente qualcuno a danno di un altro, quando di contro ci sia un'influenza diretta di intelligenza e di buone maniere. Vedo perfettamente che è a disagio di fronte ai miei progressi nella stima del fratello e ne deduco che da parte sua non lascerà nulla di intentato per contrastarmi. Ma avendolo ormai fatto dubitare una volta dell'opinione della sorella su di me, penso di poterla sfidare. Per me è stato delizioso seguire i suoi progressi verso l'intimità e soprattutto notare il cambiamento dei suoi modi in conseguenza della calma dignità del mio comportamento, volto a reprimere il suo approccio insolente a un'eccessiva confidenza. La mia condotta è stata fin dall'inizio costantemente cauta e in vita mia non mi sono mai comportata meno da civetta, anche se forse il mio desiderio di dominio non era mai stato più risoluto. L'ho completamente sottomesso col sentimento e con una conversazione posata e posso arrischiarmi a dire di averlo fatto quasi innamorare, senza l'apparenza del solito e abusato flirt. La consapevolezza di Mrs. Vernon di meritare ogni sorta di vendetta che sia in mio potere infliggere per i suoi cattivi uffici può da sola farle comprendere come io sia spinta da un qualche piano nel comportarmi in modo così gentile e modesto. Comunque pensi e faccia quello che vuole, non ho ancora mai visto il consiglio di una sorella impedire a un giovanotto di innamorarsi, se vuole. Ci stiamo avviando verso rapporti in qualche modo confidenziali. E per farla breve, stiamo probabilmente impegnandoci in una sorta di amicizia platonica. Da parte mia, puoi star certa che non sarà mai nulla di più, perché se non fossi già così tanto attratta da un'altra persona, più di quanto possa esserlo per chiunque altro, per me sarebbe un punto d'onore non concedere il mio affetto a un uomo che ha osato pensare così male di me. Reginald ha un bel personale e le lodi che hai sentito su di lui non sono immeritate, ma è di gran lunga inferiore al nostro amico di Langford. È meno distinto, meno insinuante di Mainwaring e in confronto gli manca la capacità di saper dire quelle cose deliziose che mettono di buon umore con se stesse e con il mondo. Tuttavia, è simpatico quanto basta per distrarmi e per far sì che passino piacevolmente molte di quelle ore che altrimenti spenderei tentando di vincere il riserbo di mia cognata e ascoltando le insulse chiacchiere del marito. Ciò che mi dici di Sir James è estremamente soddisfacente e mi propongo di dare molto presto a Miss Frederica un accenno delle mie intenzioni. Tua, eccetera, eccetera, Susan Vernon. Lettera 11. Mrs. Vernon a Lady De Courcy. Oh, sto davvero cominciando a preoccuparmi sul serio per Reginald, mia carissima madre, essendo testimone del rapidissimo aumento dell'influenza di Lady Susan. Ormai sono arrivati a essere amici molto intimi, sono spesso immersi in lunghe conversazioni e lei è riuscita, con l'arte sopraffina della civetteria, ad assoggettare il suo giudizio ai propri scopi. È impossibile osservare l'intimità tra di loro, sorta prestissimo, senza un certo allarme, anche se potrei difficilmente immaginare che i propositi di Lady Susan si spingano fino al matrimonio. Oh, vorrei che poteste far tornare a casa Reginald con un qualsiasi plausibile pretesto. Non è affatto disposto ad andarsene, e io gli ho fatto tanti accenni al precario stato di salute di nostro padre, quanti la comune decenza mi permetteva di fare in casa mia. Il suo potere su di lui è ormai illimitato, dato che lei ha completamente cancellato tutta la sua precedente disistima e l'ha persuaso non solo a dimenticare, ma a giustificare la sua condotta. Il racconto di Mr. Smith sul suo comportamento a Langford con l'accusa di aver sedotto Mr. Manwaring e un giovanotto fidanzato a Miss Manwaring, a cui Reginald credeva senza alcun dubbio quando è arrivato a Churchill, è ormai diventato solo una scandalosa invenzione. Me l'ha detto con un ardore tale da dimostrare il suo rammarico per aver creduto il contrario. Oh, quanto mi sento profondamente addolorata per la sua venuta in questa casa. Ho sempre guardato al suo arrivo con preoccupazione. Ben lungi però dal trasformarsi in timore per Reginald, mi aspettavo una compagnia molto sgradevole per me. Ma non potevo immaginare che mio fratello corresse il minimo pericolo di essere affascinato da una donna della quale conosceva perfettamente i principi. Oh! Il cui carattere aveva così sinceramente disprezzato. Oh, se riuscirete a trascinarlo via sarà un bene. Con affetto, la vostra Catherine Vernon. Lettera 12. Sir Reginald de Courcy a suo figlio Parklands. So che i giovanotti in genere non ammettono nessuna intromissione, neppure da parte dei parenti più stretti nei loro affari di cuore, ma spero, mio caro Reginald, che tu sarai superiore a chi non tiene affatto conto delle ansie di un padre e si sente in diritto di rifiutargli la propria confidenza e di trascurare i suoi consigli. Devi essere consapevole che come unico figlio maschio e rappresentante di un'antica famiglia, la tua condotta nella vita è del massimo interesse per i tuoi familiari. In particolare nell'importantissima questione del matrimonio, in cui è messo in gioco tutto, la tua felicità, quella dei tuoi genitori e il tuo buon nome. Non credo che tu pretenderesti o prenderesti un impegno vincolante di tale natura senza informarne tua madre e me, o almeno senza essere convinto che noi approveremmo la tua scelta. Ma non posso fare a meno di temere che tu possa essere trascinato dalla signora che ultimamente ha conquistato la tua simpatia a un matrimonio che tutti nella tua famiglia, tutti, sia vicini che lontani, non potrebbero che disapprovare in sommo grado. L'età di Lady Susan è di per sé un ostacolo oggettivo, ma la sua cattiva reputazione è cosa molto più seria, tanto che persino la differenza di 12 anni diventa al confronto poco importante. Se tu non fossi accecato da una sorta di malia, sarebbe ridicolo da parte mia ricordare gli esempi di pessima condotta per i quali è ben nota. Il disinteresse per il marito, l'incoraggiamento nei confronti di altri uomini, la sua stravaganza e la sua dissolutezza sono state così evidenti e note che nessuno avrebbe potuto ignorarle all'epoca, né possono ora essere dimenticate. Alla nostra famiglia è stata sempre raffigurata in una luce attenuata dalla benevolenza di Mr. Charles Vernon, eppure, nonostante i suoi generosi sforzi per giustificarla, sappiamo che per motivi esclusivamente egoistici ha fatto tutto quanto le era possibile per impedirgli di sposare Catherine. Gli anni e l'accrescersi delle mie infermità mi rendono sempre più desideroso, mio caro Reginald, di vederti sistemato. Quanto alle sostanze di tua moglie, la solidità delle mie me le rende indifferenti, ma la sua famiglia e il suo carattere devono essere in pari grado ineccepibili. Quando sarà fatta la tua scelta, e rispetto a ciò non possano essere sollevate obiezioni, ti posso promettere un pronto e gioioso consenso, ma è mio dovere oppormi a un'unione che solo delle arti sottili possono rendere probabile e che sarebbe alla fine condannata all'infelicità. È possibile che il suo comportamento sia dettato solo dalla vanità o dal desiderio di conquistare l'ammirazione di un uomo che sa essere particolarmente prevenuto contro di lei, ma è più probabile che punti a qualcosa di più. È povera Ed è naturale che sia in cerca di un legame vantaggioso per lei. Tu conosci i tuoi diritti e sai che non è in mio potere impedirti di ereditare le proprietà della famiglia. La possibilità di lasciarti privo di mezzi finché sarò in vita sarebbe una specie di vendetta alla quale non mi abbasserei in nessun caso. Ti espongo con onestà i miei sentimenti e le mie intenzioni. Non desidero fare appello ai tuoi timori, ma al tuo buonsenso e al tuo affetto. La serenità della mia vita sarebbe distrutta dal sapere che ti sei sposato con Lady Susan Vernon. Sarebbe come la morte di quell'onesto orgoglio con il quale ho sin qui guardato a mio figlio. Arrossirei nel vederlo, nel sentir parlare di lui, nel pensare a lui. Forse questa lettera non servirà ad altro se non a sfogarmi, ma sentivo che era mio dovere dirti che la tua parzialità per Lady Susan non è un segreto per chi ti vuole bene e metterti in guardia verso di lei. Sarei lieto di sentire le ragioni che ti hanno indotto a non credere alle informazioni di Mr. Smith. Un mese fa non avevi alcun dubbio sulla loro autenticità. Se puoi assicurarmi di non avere altro in mente che di godere per un po' della conversazione di una donna intelligente e solo di concedere la tua ammirazione per la sua bellezza e le sue capacità senza esserne accecato nei confronti dei suoi difetti, mi restituirai la felicità. Ma se non è così, spiegami almeno che cosa ha prodotto un così radicale cambiamento nelle tue opinioni su di lei. Tuo padre, Reginald De Courcy. Lettera 13. Lady De Courcy a Mrs. Vernon, Parklands. Mia cara Catherine, sfortunatamente quando è arrivata la tua lettera ero confinata nella mia stanza da un'infreddatura che mi aveva talmente irritato gli occhi da impedirmi di leggerla io stessa, cosicché non ho potuto rifiutare quando tuo padre si è offerto di leggermela lui, cosa che lo ha reso edotto con mio grande disappunto nei tuoi timori riguardo a tuo fratello. Avevo intenzione di scrivere io stessa a Reginald, non appena i miei occhi me lo avessero permesso, per sottolineare per quanto potevo il rischio di un'intima conoscenza con una donna così scaltra come Lady Susan, per un giovanotto della sua età e con le sue eccellenti prospettive. Intendevo inoltre ricordargli come siamo completamente soli ora e quanto sentiamo il bisogno di lui per tenere alto il morale di queste lunghe serate invernali. Se ciò fosse stato di qualche utilità ora non potremmo mai saperlo, ma sono estremamente contrariata dal fatto che Sir Reginald abbia saputo tutto su un argomento che avevamo previsto, lo avrebbe tanto turbato. Ha colto tutti i tuoi timori nel momento in cui ha letto la lettera e sono certa che da qualche momento non ha pensato ad altro. Ha scritto a Reginald a stretto giro di posta una lunga lettera, riempiendo interamente il foglio e chiedendogli in particolare spiegazioni su ciò che cosa avesse potuto apprendere da Lady Susan, capace di contraddire le ultime sconcertanti notizie. La risposta è arrivata stamattina e la cludo, dato che credo tu voglia leggerla. Vorrei che fosse più soddisfacente, ma sembra scritta con tale determinazione a pensar bene di Lady Susan che le sue assicurazioni circa il matrimonio, eccetera, non mi hanno tranquillizzata. Tuttavia ho detto tutto ciò che ho potuto a tuo padre perché ne fosse soddisfatto e sicuramente, da quando ha ricevuto la lettera di Reginald, è meno turbato. Com'è irritante, mia cara Catherine, che questa tua ospite indesiderata non solo ci impedisca di vederci a Natale, ma sia la causa di così tanti timori e preoccupazioni. Dai un bacio da parte mia ai cari bambini, la tua affezionata mamma. Lettera 14. Mr. De Courcy a Sir Reginald Churchill. Mio caro signore. Ho ricevuto in questo momento la vostra lettera che mi ha lasciato stupefatto come mai mi ero sentito prima. Immagino di dover ringraziare mia sorella per avermi presentato in una luce tale da nuocere alla vostra opinione su di me e procurarvi tutto questo allarme. Non so perché abbia voluto turbare se stessa e la sua famiglia paventando un evento che posso affermare nessuno se non lei stessa avrebbe mai ritenuto possibile. Attribuire un tale progetto a Lady Susan sarebbe come privarla di qualsiasi pretesa a quell'eccellente intelligenza che nemmeno i suoi più acerrimi nemici le hanno mai negato. Ed egualmente in basso cadrebbe il mio preteso buonsenso se fossi sospettato di intenti matrimoniali a seguito del mio comportamento verso di lei. La nostra differenza di età è un ostacolo insormontabile e vi prego, mio caro signore, di tranquillizzare il vostro animo e di non nutrire più un sospetto che è più un'offesa alla vostra serenità che al nostro discernimento. Non posso avere altri piani, rimanendo con Lady Susan, che godere per un po', come voi stesso avete affermato, della conversazione di una donna con delle eccellenti qualità intellettuali. Se Mrs. Vernon ammettesse che nella durata della mia visita ha una qualche importanza il mio affetto per lei e per il marito, renderebbe maggiormente giustizia a tutti noi, ma sfortunatamente mia sorella è prevenuta verso Lady Susan, e al di là di ogni speranza di persuasione. L'affetto per il marito, che in sé fa onore a entrambi, non le permette di dimenticare quei tentativi di impedire la loro unione attribuiti all'egoismo di Lady Susan, ma in questo caso, come in molti altri, il mondo ha pesantemente fatto torto a questa signora, immaginando il peggio, quando non vi era certezza circa i motivi della sua condotta. Lady Susan aveva saputo qualcosa di così grave a svantaggio di mia sorella da persuaderla che la felicità di Mr. Vernon, al quale è stata sempre molto affezionata, sarebbe stata completamente rovinata da quel matrimonio. E questa circostanza, oltre a spiegare i veri motivi della condotta di Lady Susan e a cancellare tutto il biasimo che è stato riversato su di lei, può farci capire quanto poco credito debba essere attribuito alle dicerie su chiunque, dato che nessuno, per quanto sia retto, può sfuggire al livore della calunnia. Se mia sorella, al riparo di una vita ritirata, senza opportunità o inclinazioni al male, non ha potuto evitare le critiche, non dobbiamo affrettatamente condannare coloro che, vivendo in società e circondati dalle tentazioni, vengano accusati di errori che si sa hanno la possibilità di commettere. Mi biasimo severamente per aver creduto con tanta facilità alle scandalose fandonie inventate da Charles Smith a danno di Lady Susan, dato che ora sono consapevole di quanto sia stata diffamata. Quanto alla gelosia di Mrs. Mainwaring, è stata una sua totale invenzione, e la storia della seduzione dell'innamorato di Miss Mainwaring non ha maggior fondamento. Sir James Martin era stato trascinato da questa signorina a concederle qualche attenzione, e dato che è un uomo ricco, è facile capire come fossero i piani di lei a puntare al matrimonio. È ampiamente noto che Miss Mainwaring è alla disperata ricerca di un marito. E nessuno perciò deve compiangerla per aver perduto, a causa delle superiori attrattive di un'altra donna, la possibilità di rendere infelice un uomo da bene. Lady Susan era ben lungi dall'avere in mente una tale conquista, e vedendo la veemenza del risentimento di Miss Mainwaring per la defezione dell'innamorato, ha deciso, nonostante le ardenti suppliche di Mr. e Mrs. Mainwaring, di lasciare la famiglia. Ho motivo di credere che abbia ricevuto delle proposte serie da parte di Sir James, ma la sua immediata partenza da Langford, dopo aver scoperto i sentimenti di lui, la fa assolvere su questo punto da parte di chiunque abbia un minimo di imparzialità. Sono certo che riconoscerete, mio caro signore, la veridicità di queste argomentazioni e che quindi saprete rendere giustizia alla reputazione di una donna che ha subito molti torti. So che venendo a Churchill, Lady Susan è stata spinta solo dalle più onorevoli e affettuose intenzioni. La sua discrezione, la sua frugalità sono esemplari. Il riguardo che mostra per Mr. Vernon è pari perfino ai suoi meriti e ai meriti di lui. E il suo desiderio di guadagnare la stima di mia sorella, beh, meriterebbe una ricompensa migliore di quella che ha ricevuto. Come madre è ineccepibile, il suo solido affetto per la figlia è dimostrato dall'averla affidata alle cure di chi saprà darle un'appropriata educazione. Ma poiché non ha la cieca e debole parzialità della maggior parte delle madri, è accusata di mancanza di tenerezza materna. Ogni persona di buon senso, tuttavia, saprà apprezzare e lodare l'equilibrio del suo affetto e si unirà a me nell'augurarsi che Frederica Vernon possa dimostrarsi più degna di quanto non sia stata finora delle tenere cure di sua madre. Ora, mio caro signore, espresso i miei veri sentimenti per Lady Susan. Avrete capito da questa lettera quanto alta sia la mia ammirazione per le sue qualità e la stima per il suo carattere. Ma se allo stesso modo non vi convincerete, dopo le mie piene e solenni assicurazioni, di come i vostri timori siano stati provocati senza alcun motivo, mi sentirò profondamente mortificato e addolorato. Vostro figlio, Reginald De Courcy.